Dimmi tu chi sei. Di che paese sei? Quanto hai camminato e cosa hai fatto? Straniero, dove sei arrivato? Resta un poco qui. Resta ancora un poco. Resta un poco, no, importa quanto. Straniero, non importa quanto. Sul tuo volto scuro un sorriso è nato, un profumo di grano maturo. Il vento ha carezzato sei rinato, il posto l'hai trovato, il posto l'hai trovato. Il fumo di quel treno che era il tuo passato. Ora l'orizzonte è già svanito, resta qui straniero, che mi hai trovato, che mi hai trovato, ciao.